Europa 24. E un saluto da Anna Migliorati. Allora ripartiamo anche noi parlando proprio di immigrazione, il momento della decisione. Nel consueto incontro con la stampa di mezzogiorno a Bruxelles si annuncia così il vertice di giovedì sull'immigrazione. Si parla ormai apertamente, come sentivate, anche di azione militare europea contro gli scafisti. In Europa in questi giorni qualcosa sembra finalmente muoversi. Quei quasi 1000 morti in mare hanno scosso le coscienze. Si guarda con speranza al vertice straordinario dei capi di Stato e di Governo di giovedì, il quale dovrebbe formalmente adottare il progetto esaminato ieri dai ministri degli interni e degli esteri, le 10 proposte elaborate dalla Commissione europea. Tra queste il rafforzamento di Frontex e Triton, sia economicamente sia a livello di mezzi, ma soprattutto un'azione incisiva contro i trafficanti di morte nel Mediterraneo. Si pensa ad un'operazione militare per colpirli, ha detto Natasha Bertò, uno dei portavoce della Commissione europea. Si parla anche dell'azione di raid aerei per i quali sarebbe necessario l'intervento dell'ONU. Tra le ipotesi sul tavolo anche missioni di polizia da inviare nella parte settentrionale della Libia a controllo dei porti. Mentre sul fronte dell'accoglienza partirebbe un progetto pilota di condivisione del carico dei profughi che potrebbero essere redistribuiti tra i vari paesi europei per quote, inizialmente su base volontaria. Questo è il momento della decisione, della solidarietà, dell'unità europea sull'immigrazione, dice oggi il portavoce della Commissione Margherita Schinas. Di certo l'Unione Europea è chiamata alla prova dei fatti e l'Italia si gioca la sua partita più importante sull'immigrazione per ottenere finalmente impegni concreti. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Appuntamento dunque col vertice di giovedì, ma intanto a preoccupare Bruxelles c'è anche la Grecia. Siamo pronti a qualsiasi evento, ma escludo al 100% una Grexit. Netto il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, che in un'intervista dice oggi che non ci sarà un default. Juncker chiede anche chiarezza ad Atene, che non collabora come vorremmo, dice, anche se spiega i negoziati degli ultimi giorni stanno cominciando ad andare nella giusta direzione, anche se c'è ancora molta strada da fare. Avevo perso la pazienza nel frattempo, confessa Juncker. Ora l'ho ritrovata e non voglio perderla di nuovo. Trattative serrate in vista dell'Eurogruppo, fissato in questo caso venerdì. Ma non ci sono solo i conti greci. Nuova riduzione del rapporto deficit-PIL complessivo nell'area euro nel 2014, calato al 2,4% dal 2,9% dell'anno precedente, secondo Eurostat. Al tempo stesso, però, l'incidenza del debito è continuato a crescere al 91,9% del PIL dal 90,9% del 2013. Per quanto riguarda l'Italia, il debito italiano nel 2014 è salito al 132,1% del PIL e il deficit ha raggiunto il 3%, dice Eurostat. Il debito italiano è il secondo più alto dell'Unione Europea dopo quello greco. Anche la Polonia ha deciso di partecipare al piano Juncker. 8 miliardi. L'annuncio è arrivato in concomitanza con la visita del vicepresidente della Commissione europea Katainen a Varsavia. La Polonia è così il sesto paese dopo la Germania, la Francia, l'Italia, la Spagna e il Lussemburgo a decidere di contribuire finanziariamente al piano per gli investimenti. Italia ultima in Europa per numero di laureati nel 2014, solo il 23,9% dei giovani tra i 30 e i 34 anni era in possesso di una laurea, a dirlo sempre Eurostat. Allora, perché questa differenza in Europa? Francesco Ferrante, curatore del rapporto Alma Laurea sulla condizione occupazionale dei laureati italiani, al microfono di Alessandra Schepisi. Sicuramente è un dato che noi abbiamo in passato anche ribadito, caratterizzare il nostro paese in negativo. Il nostro è un paese che ha difficoltà a valorizzare i laureati e una delle conseguenze è appunto che l'incentivo della popolazione, dei giovani a iscriversi all'università è inferiore rispetto ad altri paesi. Se sommiamo a questo dato che riguarda la capacità del mercato del lavoro di assorbire il lavoro qualificato, le risorse messe in campo dal paese per sostenere il sistema universitario, abbiamo un altro elemento che spiega perché abbiamo così pochi laureati. Ed è tutto, almeno per ora, ma come sempre l'Europa vi aspetta ad Europa Notte. Europa 24. In collaborazione con Euronet Plus.